San Pietrino, giù. A che te ci facciamo con quanto la casa, oye. E spera, dopo, peggiamo, aspettana. Buongiorno a tutti quanti, in diretta do campo. Siamo in diretta mo, facciamo la radio cronaca della nostra amatissima squadra. Procediamo con le formazioni che vedono nella nostra squadra beniamina che tanto seguiamo con il cuore e con la mente. Morri, tra parente in porta, chiude parente. Beccapiede, tra parente, capitano in difesa, chiude parente. San Pietri Carmine Baratto che completano la difesa. Bianchi, rossi, verdini, arcobaleno, tra parente che completano il centrocampo a rombo, chiude parente. In attacco Scarsi e Marco di Travertino, lì davanti diciamo a incutere timore, Marco di Travertino. Passiamo a quelli bastardi della squadra avversaria. Per la squadra avversaria, nonché bastarde, hai già detto, portiere in porta, o diciamo uno me stesso, Mancini libero, destriere occupato, questa mi è venuta buona, Mancini libero, destriere occupato, Monchi, ambidestri e completano la difesa, Gucci, Amari, Dolce davanti alla difesa, Gabbana, capitano storico e completano insieme la difesa. In avanti porta Borse, dietro l'unica punta il micidiale Leccacolo. Ecco che sono i caini con quelli che scontriamo. Speriamo che ci facciamo quello quanto una casa, va, vediamo un po'. Ci vediamo all'intervallo.